Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Essere differenti è normale. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Abbiamo deciso di aprire la puntata di oggi con lo slogan che ha ispirato la campagna ideata per la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down. Giornata che si è celebrata il 21 marzo scorso e che ha visto protagonista un progetto di comunicazione innovativo destinato a fare scuola in tema di comunicazione sociale. Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti. Siete stati contagiati anche voi dalla game mania? Chiariamo ogni equivoco sul nascere, il gioco d'azzardo non c'entra, parliamo di social game, di urban game, parliamo di strategie di marketing collegate ai meccanismi del gioco, di videogiochi educativi e di denuncia. È una delle tendenze del momento e il tema del nostro focus sui trend. Prima ci sono le notizie e curiosità di questa settimana. Torna Fa la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Al centro di questa nona edizione, a Milano dal 30 marzo al 1 aprile, la sezione dedicata al turismo consapevole. Il gruppo tessile Inditex, proprietario del marchio Zara, supera negli utili 2011 il concorrente svedese H&M, diventando leader mondiale fra le catene di negozi di moda. Il gruppo, 5.527 punti vendita in tutto il mondo, ha registrato un giro d'affari per quasi 14 miliardi di euro. Israele, primo paese al mondo ad adottare un provvedimento del genere, mette al bando le modelle sottopeso. Niente più pubblicità per legge per le donne e gli uomini con un indice di massa corporea inferiore a 18,5, limite al di sotto del quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di denutrizione. Svolta purista a difesa dell'arabo invece in Qatar. Nonostante l'80% della popolazione dell'Emirato sia straniera, le autorità di Doha hanno deciso di vietare tutti i tabelloni pubblicitari in inglese o in altre lingue diverse dall'arabo. Piccoli elettrodomestici. Solo uno su quattro viene recuperato. Lo dicono i dati del Centro di Coordinamento RAE, sigla che identifica i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che presto lancerà una serie di iniziative per migliorare la raccolta di cellulari, frullatori, rasoi, telecomandi, giochi elettronici e simili. La borsa della spesa. Danzare invece di muoversi. Quelli che sentite in sottofondo, li avrete riconosciuti, sono gli spot di alcuni grandi marchi che il 21 marzo scorso sono andati in onda in TV in versione alternativa, reinterpretati cioè da attori con sindrome di Down. La campagna firmata dalla Saatchi & Saatchi per Core Down, il coordinamento nazionale delle associazioni delle persone con sindrome di Down, che prevedeva anche una versione sulla stampa e incursioni in alcune trasmissioni televisive, ha voluto lanciare un messaggio a favore dell'integrazione contro ogni pregiudizio. Partner dell'iniziativa brand come Illy, Enel, Averna, Carrefour, Cartassì, Pampers e Toyota, tutti clienti della storica agenzia. Un approccio senza dubbio innovativo e alternativo per una campagna sociale, un approccio del quale abbiamo parlato con Agostino Toscana, direttore creativo Saatchi & Saatchi. La miccia è stata la consapevolezza del momento difficile per le campagne sociali in Italia. Quindi la prima cosa è stata: come si riesce a fare un'operazione che sia professionalmente ben eseguita non avendo a disposizione soldi? La soluzione è stata questa: chiediamo a tutte le persone con cui lavoriamo non soldi ma tempo e lavoro, inserendoci, innestandoci, questa è una cosa nata 6 mesi fa, no? Nelle produzioni che andremo ad affrontare con i nostri clienti da qui a 6 mesi, provando a fare delle versioni alternative di ogni produzione. Quindi l'unico vero sforzo è ritagliamo un'ora in più su ogni shooting per girare una scena alternativa a una presente nel film in cui il protagonista sia un attore con sindrome di Down. Quando l'avete proposta ai vostri clienti, come hanno reagito? Hanno detto subito di sì? Sì, diciamo che c'è stato un effetto trascinamento. Il primo ha detto di sì, di conseguenza noi siamo andati dal secondo dicendogli guarda che lui ha già detto di sì, l'altro ha detto di sì anche lui e automaticamente si è creata questa catena, no? A campagna ormai andata in onda, le posso chiedere qual è stato l'impatto? La nostra speranza era che la campagna, contrariamente al solito, non venisse notata nei suoi materiali, no? E nel senso che la gente non si accorgesse della differenza, perché il vero senso di questa roba qua è nata sul problema dell'integrazione, non è nata sul problema della denuncia, no? Era quello di iniziare, di creare una nuova cultura che superi i pregiudizi e ci abitui a integrare queste persone nelle attività di tutti i giorni. Era per questo che avevamo bisogno che la cosa fosse segnalata. Devo dire che la copertura gratuita media è stata immensa, cioè tutti ne hanno parlato e soprattutto anche tutti quelli al di fuori dei confini della comunicazione commerciale, dello spazio dedicato agli spot o delle pagine pubblicitarie, hanno accettato il nostro invito e quindi le Iene per una volta hanno avuto un down in una presentazione vicina alla Prova del Cuoco, a G-Day della 7, insomma a un sacco di trasmissioni televisive hanno accettato l'invito di avere una faccia diversa, nuova in un momento della trasmissione. La nostra ambizione sarebbe che l'anno prossimo anche le altre agenzie si unissero e facessimo una giornata veramente tutta con gli spot diversi e che poi non ci fosse più la giornata a quel punto, ma che le persone entrassero a recitare nelle trasmissioni, come già adesso, non so, le troviamo nelle cucine dei ristoranti o nei negozi in cui entriamo. Questo era solo un esempio, diciamo, mediatico per sottolineare la necessità di una cultura nuova che è quella dell'integrazione. Sarà una linea futura quella del coinvolgimento dei brand e comunque delle dinamiche più strettamente commerciali per le campagne sociali? Sì, è un fenomeno che all'estero c'è già da molto tempo e coinvolge non solo i bisogni delle associazioni, che ovviamente hanno sempre più bisogno di fondi, ma anche la stessa immagine dei brand, che più si legano a cause e si danno anche un vestito etico e più rafforzano la loro immagine. Quindi sono due esigenze che insomma si incontrano e diventano virtuose in quel caso. Quello che ci interessava stavolta era anche fare una campagna media free, cioè non un'idea che fosse solo legata a uno spot pubblicitario o a un comunicato radio, ma un'idea generale che viaggiasse da sola attraverso tutti i media e anche al di fuori, come dicevo prima, degli spazi pubblicitari, e fosse un'idea che per accumulo fosse libera e passante, che è un po' la filosofia della pubblicità contemporanea, quella di essere, con una parola inglese che è cross media, no? La consideriamo anche un esempio da seguire anche nella comunicazione commerciale. Gli esperti di comunicazione sociale dicono che scioccare ormai è controproducente per coinvolgere, bisogna giocare su altri meccanismi per attivare la cosiddetta call to action. Sì, io sono contrario per principio all'effetto scioccante. Ci sono stati casi importanti nel passato in cui le campagne sociali hanno avuto bisogno anche di un effetto scioccante, ma erano altri temi e altri obiettivi da raggiungere. Le persone con sindrome di Down, se messe nelle condizioni migliori, possono integrarsi nella società e contribuire attivamente al suo sviluppo. L'idea vincente di questa campagna è il messaggio di normalità, ci dice Sergio Silvestre, coordinatore nazionale Core Down. Cliccando sul sito coredown.it potrete vedere tutti gli spot. Lo slogan che da alcuni anni il Core Down utilizza è essere differenti è normale. Mutuando questo slogan abbiamo trovato una partnership importante attraverso una collaborazione con l'agenzia di comunicazione Station Sachi, al quale abbiamo chiesto di individuare delle strategie di comunicazione che interpretassero al meglio questo concetto. Siamo rimasti molto sorpresi dall'impatto che ha avuto questa campagna. Immaginavamo che un modo nuovo di comunicare il sociale attraverso l'utilizzo di strumenti tra virgolette commerciali creasse un po' di curiosità da questo punto di vista, ma i risultati che sono stati al di là di ogni possibile immaginazione sono stati ripresi soprattutto dalla rete, perché poi era quello l'obiettivo, perché andando in onda solo in una sola giornata tutti gli spot c'era il rischio che molti non li vedessero, per cui li abbiamo caricati su diversi siti e siamo stati presi letteralmente d'assalto da chi naviga ovviamente in rete. Per poterli visualizzare abbiamo avuto in un giorno solo oltre 20.000 visualizzazioni sui nostri siti. Molte volte le persone con disabilità intellettive sono considerate incapaci, in realtà non è così, era impensabile soltanto 20 anni fa per immaginare una persona con sindrome di Down lavorare dietro una cassa o facendo il cameriere. Oggi queste cose sono delle realtà. abbiamo addirittura persone con la sindrome di Down che sono riuscite attraverso un percorso a vivere una vita del tutto autonoma dalla famiglia e vivono una vita piena, completa come tanti loro coetanei. Essere e avere. Rest your weary head and let your heart decide. It's so di nuovo in studio con Essere e Avere. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo di game mania, quando il gioco fa tendenza. Play the game. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Sempre di più il gioco e le sue dinamiche sono protagonisti nel mondo dei consumi. Utilizzato per lo più nel marketing, il gioco è entrato anche nei modelli di business, nell'economia, nel lavoro, nei temi sociali quali la difesa dell'ambiente e dei diritti umani. Dagli urban game ai videogiochi educativi o di denuncia, dalle app che trasformano in gioco le attività di tutti i giorni, ai social game che assegnano punti a chi compie buone azioni. Patrizia. Sì, si chiama gamification, termine inglese intraducibile, ma parliamo del trend in grandissima espansione che riguarda il gioco, o meglio i giochi a premi legati ai consumi. Dunque giocare per vincere diventa una forte motivazione che spinge i consumatori, gli utenti a fare le cose chieste loro dai brand, tutto questo per lo più in rete. Ma gamification non è appunto proprio sinonimo di game, di gioco, infatti è l'applicazione delle dinamiche, dei meccanismi del gioco ad esperienze non di gioco come quelle di consumo per l'appunto. Questo perché? Perché si è visto che l'applicazione di questi meccanismi del gioco utilizzati nelle strategie di marketing in tutti i settori portano dei risultati sia in termini di business ma anche come innesco di comportamenti attesi, per lo più virtuosi, e incentivare comportamenti ecosostenibili con il gioco è per esempio l'idea del sito francese Cité Green, città verde, il nome è mezzo francese mezzo inglese, che assegna punti e conseguenti sconti e regali, premi, a chi compie azioni buone per il pianeta. Si va dal carpooling al riciclo alla raccolta differenziata. Per capire come funziona in quest'ultimo caso, per esempio, viene inserito un microchip nei vari bidoni della spazzatura di chi partecipa e questo microchip misura i volumi settimanali, quindi si compete con tutti gli altri iscritti, si accumulano punti, si vincono premi che sono messi in questo caso in palio delle aziende partner di Cité Green. Pensiamo che a Londra il carpooling, cioè la condivisione delle automobili da parte di più persone su una stessa tratta, è stato spinto e molto incentivato proprio anche con un gioco, si chiamava Ride Kicks. Molte le application, le app per smartphone e tablet per condividere in modo competitivo con i propri amici su Facebook i comportamenti di risparmio energetico domestici. Il meccanismo è sempre quello del gioco competitivo con i premi finali. Stiamo in ambito abitare e riparliamo di sensori che trasformano in gioco qualsiasi attività della vita quotidiana, le attività domestiche, perché sempre per renderle più divertenti, e questo non è poco. Si chiama Green Goose, è un sistema appunto di sensori in rete applicabili a qualsiasi cosa, dal collare del cane a un frisbee che usiamo in giardino alle bottiglie d'acqua che utilizziamo. Ne tracciamo i movimenti e in rete un gioco collegato tiene traccia di tutti gli usi con degli score sugli standard migliori attesi. È un esempio non banale di una semplice tecnologia unita a un semplice elemento di gioco che ci fa anche capire che cos'è l'internet delle cose, cioè quando le cose cominciano a parlarsi e a scambiarsi informazioni e dati tra loro. Uso particolarmente originale della gamification nel settore turismo dell'hotellerie, quello di Marriott, la nota catena alberghiera internazionale, che usa il gioco per assumere nuovo personale. Ha creato un gioco su Facebook sia per il reclutamento che per la formazione delle persone, in particolare pensato per i millennials, i giovani cioè tra i 18 e i 27 anni, che sono molto social e molto mobile. Gli si fa fare un test o il training specifico, che diventa molto divertente e coinvolgente proprio perché inserito sulle loro piattaforme preferite e usate. Il gioco è in inglese, spagnolo, francese, arabo e mandarino e ricalca Farmville, per avere un'idea. Più clienti felici, più punti, più clienti insoddisfatti, meno punti. Anche il cinema non è rimasto immune alla game mania. Primo film di genere, la pellicola di culto Tron del 1982, cui ha fatto seguito nel 2010 Tron Legacy. In queste settimane a fare notizia è il film Hunger Games, trasposizione sullo schermo del romanzo di fantascienza omonimo. La storia ruota intorno a una sorta di reality show in cui gli adolescenti sono costretti a sfidarsi all'ultimo sangue. Preceduto da una campagna virale di successo, Hunger Games uscirà in Italia il prossimo 1 maggio. Benvenuti, benvenuti. È il momento di scegliere i coraggiosi ragazzi che avranno l'onore di rappresentare il Distretto 12 alla 74esima edizione annuale degli Hunger Games. È il tuo primo anno, premi il tuo nome lì dentro per la prima volta, non sceglieranno te. Volontaria per il tributo! I nostri tributi Peeta Mellark e Katniss Everdeen. Vogliono solamente un bello spettacolo. Siamo 24, Gale, e solo uno di noi torna indietro. 5, 4, 3, 2, 1. Patrizia, un altro dei fenomeni di cui si parla molto collegati a questa tendenza sono gli urban game. Sì, i giochi urbani sono intanto un fenomeno molto rilevante in tema di spazi pubblici, di uso e riappropriazione degli spazi pubblici da parte delle persone, spazi che su questo fronte esprimono moltissime energie e creatività e sono luoghi di grandi sperimentazioni. C'è un gioco molto interessante che sta diventando una pratica sociale comunitaria a Londra e riguarda l'intera città, con l'applicazione ChromaRoma, che è anche un sito sviluppato dalla società Moodlark. La rete di trasporti pubblici, metro e bus, ma adesso esteso anche alle piste ciclabili, diventa un gioco a squadre basato sui tracciati e sui dati di viaggio di chi partecipa. Dunque, gli abbonati che usano i mezzi pubblici con obiettivo ultimo muoversi in città e soprattutto esplorarla senza usare mezzi privati. Restiamo in Inghilterra, dove è nata Zombies Run, Zombie Corri, un'applicazione per la corsa per Apple e Android da usare con lo smartphone, che risolve il grande problema di una tra le più nutrite tribù metropolitane, quella dei runner, all'eterna ricerca di espedienti per combattere appunto la noia della corsa. Questa applicazione integra da un lato le funzionalità solite di self-tracking, cioè la misurazione dei tempi di percorrenza, le calorie eccetera, e un videogioco in realtà aumentata su un'apocalisse zombie, quindi si deve correre più veloce possibile per sopravvivere agli zombie che ci stanno inseguendo. Moltissime le iniziative evidentemente di ambient marketing, di lancio di giochi sociali negli spazi pubblici con finalità formative o di sensibilizzazione ai temi ambientali, dall'invito ad andare a piedi al risparmio energetico eccetera, questi temi più utilizzati. A Stoccolma per esempio recentemente le scale del metro sono state trasformate in enormi pianoforte con gradini tasti che emettevano dei suoni. Il 66% dei pendolari durante l'iniziativa non ha usato le scale mobili. La campagna era una ambient di Volkswagen e quindi ha fatto le scale a piedi proprio per il gusto di strimpellare e di sentire i suoni prodotti. Il gioco, che è di per sé una cosa molto seria ma che nell'uso comune significa esattamente il contrario delle cose serie, qualche volta ha bisogno di attaccarsi l'aggettivo serio per dimostrare di avere obiettivi alti. Ecco quindi i serious game, i giochi seri, e gli educational game, i giochi educativi. Games for Change, organizzazione non governativa fondata nel 2004, è un movimento e un omonimo festival che sostiene l'uso dei videogiochi per il cambiamento sociale, diventata famosissima per il gioco sul Darfur, si chiamava Darfur is Dying, stessa filosofia per il gruppo italiano molleindustria.org, che, come si dice sul sito, unisce l'attitudine media attivista alla critica videoludica. I videogiochi che propone quindi uniscono il divertimento e qualche scomoda conoscenza o messaggio politico. Alcuni esempi: Phone Story, il lato oscuro del tuo telefonino, un videogioco sull'impatto della produzione dei device elettronici. Si segue tutto il tragitto del telefonino dalle miniere congolesi alle fabbriche di assemblaggio della Cina. O Leaky World, sulla gestione di una rete informativa globale per combattere le fughe di notizie, che è una interessante interpretazione interattiva del saggio di Assange, La cospirazione come governance, appunto del fondatore di Wikileaks. E Inno al gioco, nell'ultimo libro manifesto di questo tema di Franco Bolelli, Giocate con il punto esclamativo, lui ci tiene molto a sottolinearlo, quindi giocare come comandamento base per l'educazione dei figli, questo è il tema del libro di Bolelli, che naturalmente prevede il mettersi in gioco dei genitori proprio alla lettera. Dunque la vita come campo di giochi è l'idea di fondo. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Tokyo su Game Mania e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher. Ciao Alessia, Alessia Zampano. Ciao, buon pomeriggio. Dunque, la Capcom è un'azienda videoludica giapponese, nonché uno dei colossi dell'entertainment mondiale. All'inizio di quest'anno ha compiuto un'insolita incursione nel mondo della ristorazione, aprendo i battenti del Capcom Bar. Nel locale l'atmosfera generale è pesantemente virata sui toni del nero e del blu notte, a ricordare lo schermo di computer, toni illuminati da luci colorate psichedeliche. L'arredo riprende l'estetica e la grafica pixelizzata tipica dei videogiochi e lo spazio, al di là dei tavoli in cui si consuma, include schermi e postazioni di gioco in cui provare tutte le ultime uscite. Ma non solo, per soddisfare i palati dei videogiocatori più esigenti, al Capcom Bar servono piatti e bevande ispirate nei nomi, nella presentazione, nei colori e negli ingredienti ai personaggi dei videogiochi più famosi dell'azienda. Si può cominciare quindi con una pasta al nero di seppia ispirata a Phoenix Wright, continuare con un cosciotto alle staminali geneticamente modificato in perfetto stile Monster Hunter e finire in bellezza, è proprio il caso di dirlo, con un dessert dalle fattezze di un cervello da cui cola una sanguinolenta salsa di lampone a celebrare la saga degli zombie protagonisti di Resident Evil. Grazie Alessia, un indirizzo da annotare per chi ha in programma un viaggio da quelle parti. Patrizia, una moda passeggera o una tendenza su cui scommettere questa game mania per il mondo dei consumi? Ma la tendenza non è certo passeggera, siamo tutti giocatori, sempre più giocatori, quindi sulla voglia di giocare delle persone sulle loro piattaforme preferite si può certamente scommettere. L'opportunità per i brand di gamificare, brutto verbo, ma per riprendere gamification, l'esperienza dei consumatori è una grande opportunità. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee e i vostri suggerimenti in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.